Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. I servizi italiani sono sempre stati perfettamente al corrente della, diciamo, di questa attività di monitoraggio che interveniva pesantemente anche nella privacy delle telecomunicazioni dei cittadini italiani. Dire che i nostri servizi sapessero non sapendolo il governo non è assolutamente corretto. Datagate, il presidente del Consiglio Letta ha incontrato il segretario di Stato americano Kerry questa mattina. Si verificano eventuali violazioni della privacy, dice. Gli audio che vi abbiamo fatto ascoltare sono dei precedenti due giorni, prese da questa trasmissione, e sono quelli di Claudio Fava e di Giacomo Stucchi, membri del COPASIR entrambi, il secondo presidente, con due versioni diverse sulla vicenda. Ad un anno e mezzo dall'agguato, dopo un anno e mezzo in coma, muore il consigliere comunale di Torino, Alberto Musi. Più entrate e più spese nel 2014, questo è il quadro della manovra. Timori per i nuovi tributi. I piccoli comuni dell'Anci dicono non ce la faremo a tenere la Tasi all'aliquota minima. Sempre più forti i segnali di scarsa tenuta della maggioranza. Ancora scontro sul voto di ieri che ha eletto Rosi Bindi alla presidenza della commissione antimafia. Gioco d'azzardo, iniziativa della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, carte di credito bloccate a chi si rovina. Lancia una valigetta con della marijuana dalla finestra, cade sulla testa di un poliziotto arrestato, un ventenne a Milano. Dunque, in apertura vogliamo parlare del cosiddetto Datagate, lo scandalo che riguarda il sistema di intercettazioni di telefonate, email, messo in atto dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Americana. Però prima vi vogliamo dare un aggiornamento su una vicenda che sta uscendo fuori in queste ore. Si tratta di una vicenda sulla quale cercheremo di darvi aggiornamenti anche nel corso della giornata, che riguarda un ragazzo di 19 anni di Lecco, Gioele Leotta, ucciso a calci e pugni a Maidstone, capoluogo del Kent, da un gruppo di 8 ragazzi del posto tra 21 e 25 anni. Stando a quanto riferisce il quotidiano Il Giorno, è stato picchiato perché, questo è il motivo, rubava il lavoro agli inglesi. Notizia di poco fa. Ci sono stati 9 arresti, li ha effettuati la polizia del Kent. 7 dei presunti assassini rimangono in carcere, mentre 2 sono stati rilasciati su cauzione. Quando avremo aggiornamenti, naturalmente ve li daremo. Veniamo al Datagate. Come si diceva, il sistema rivelato dall'ex uomo della CIA Edward Snowden. Oggi l'incontro tra il presidente del Consiglio Letta e il segretario di Stato americano Kerry. Sentiamo. Come previsto, anche lo spinoso dossier Datagate è finito al centro dell'incontro fra il premier Letta e il segretario di Stato americano Kerry. Un faccia a faccia durato oltre un'ora. Secondo fonti di Palazzo Chigi, Letta ha chiesto di verificare la veridicità delle indiscrezioni su eventuali violazioni della privacy, riscontrando un atteggiamento cooperativo da parte del capo della diplomazia americana. Dopo le proteste francesi, il Datagate alimenta interrogativi anche da noi. Si cerca di capire se e in che modo anche cittadini e istituzioni italiane siano finite nella rete di intercettazioni a tappeto dell'NSA, l'Agenzia Nazionale di Sicurezza Americana. Non credo che Roma sia stata risparmiata, sostiene oggi Vincent Cannistraro, ex direttore dell'ufficio italiano della CIA, intervistato dal Corriere della Sera. Sul caso stamattina è intervenuto anche il ministro dell'Interno. Dobbiamo acquisire tutta la verità e dire tutta la verità senza guardare in faccia a nessuno, ha detto Alfano. A chiedere chiarimenti al governo in queste ore, oltre al garante per la privacy e anche il COPASIR, il comitato di controllo sui servizi segreti, che nel pomeriggio ascolterà Marco Minniti, sottosegretario con delega all'intelligence. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A Torino è morto nella notte il consigliere Alberto Musi, vittima di un misterioso agguato un anno e mezzo fa. Ripreso oggi intanto il processo a Francesco Furchi, identificato come l'attentatore, che rischia l'accusa a questo punto di omicidio. È stata una persona molto solare, molto aperta, molto intelligente, un innovatore, uno profondamente liberale. L'onorevole Gianni Vernetti era stato il primo a dare la notizia dell'attentato all'amico e collega Alberto Musi. Nella notte il consigliere comunale è morto dopo 19 mesi di coma e si sommano le voci che ne ricordano il valore politico e umano. Il sindaco di Torino, Piero Fassino, si stringe accanto alla moglie e alle 4 figlie. È un momento di dolore che si rinnova per la famiglia, per la città, per tutti coloro che hanno conosciuto Alberto, lo hanno stimato, lo hanno apprezzato. e la tragica conclusione questa di un calvario iniziato il 21 marzo 2012, quando Musy è stato raggiunto da colpi di pistola mentre usciva da casa. A sparargli un uomo con il casco integrale, come si vede dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza nel centro di Torino. Solo un anno dopo la polizia ha arrestato il responsabile, il faccendiere Francesco Furchi, che tuttavia si è sempre dichiarato innocente. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe agito per rancori personali e professionali contro il consigliere in quota UDC. Alla notizia della morte in aula proprio oggi per la ripresa del processo, Furchi si è limitato a chiedere «E ora?». Ora l'accusa potrebbe cambiare il capo di imputazione da tentato omicidio a omicidio volontario aggravato, pena l'ergastolo. E in quel caso il processo dovrà ricominciare in assise. Valentina Innocente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di tasse, o meglio di manovra e tasse. Il punto sui conti lo fa oggi Il Sole 24 Ore. La manovra, la legge di stabilità, aumenterà la spesa pubblica per 2,6 miliardi e le entrate per quasi un miliardo. Tutto questo nel 2014. Il calo delle spese è previsto dal 2015 con 4,7 miliardi. Le entrate caleranno per quell'anno per poi risalire l'anno successivo. Torneremo ad approfondire l'argomento. Intanto si discute delle nuove imposte in arrivo, in particolare la tassa sui servizi indivisibili. Il tema è ancora se costerà più o meno di IMU e TARE. Se l'elemento centrale sarà senza dubbio quello che potranno decidere i comuni, i quali avranno la facoltà di scegliere se tenerla all'1 per 1000 della rendita catastale o farla salire fino al 2,5 per 1000. Il pallino in mano a loro, dunque, che oggi si riuniscono a Firenze per l'assemblea annuale dell'ANCI. Ubaldo Cianciulli ha intervistato Pierandrea Vanni, sindaco di Sorano, provincia di Grosseto, che è il coordinatore regionale della consulta Piccoli Comuni di ANCI Toscana. Sorano riuscirà a stare sull'1 per 1000 per la TASI? Temo di no, speriamo di non andare molto oltre l'1 per 1000, ma temo sarà molto difficile. L'ufficio tributi del mio comune è 7 mesi che lavora per la TARES. E per fare la TARES, per lavorare sulla TARES, ha messo da parte tutti gli altri suoi compiti. Adesso approveremo a giorni noi come altri comuni il regolamento della TARES e il bilancio. Dopodiché tutto questo lavoro verrà in gran parte buttato, letteralmente, perché dal 1 gennaio la TARES non c'è più e bisogna ricominciare da capo, con norme che sono in parte, profondamente in parte, diverse da quelle previste per la TARES. Allora non si può andare avanti con cambiamenti continui e costanti, con novità nello spazio di pochi mesi si fa una scelta giusta o sbagliata, poi si scopre che è sbagliata e si butta nel cestino. In questa situazione non solo i piccoli comuni non ce la fanno per la loro esiguità di organico, ma credo non ce la possa fare nessuno. Noi, se non diamo certezze alle strutture amministrative e ai cittadini, non andiamo più da nessuna parte. Quindi a oggi siamo terrorizzati da cosa succederà dal 1 gennaio, però dovendo ancora fare il bilancio 2013 ci accontentiamo di vivere la giornata, ma questo per un amministratore e per i cittadini è un grande errore. La politica continua a vedere uno scontro tra PD e PDL sull'elezione di Rosi Bindi a presidente della commissione antimafia. Anche di questo torneremo a parlare più avanti in Effetto Giorno. La domanda che vi stiamo facendo oggi sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno è se la commissione antimafia serve a qualcosa. Però facciamo il punto politico intanto. Penso che questa commissione debba incominciare a lavorare, abbiamo già perso molti mesi nei veti incrociati. Ci dovremmo unire per gli scopi e le finalità della commissione. Cerca di stemperare le polemiche la nuova presidente Rosi Bindi invitando tutti a guardare avanti e a lavorare, ma lo strappo sulla commissione antimafia rischia di logorare ancora di più le larghe intese. Il PDL annuncia un mini Aventino per le prossime settimane, mentre il PD entra in fibrillazione con i renziani contrari a questo voto, ma intanto i partiti della maggioranza discutono anche sul voto che a novembre dovrà decretare la decadenza di Berlusconi dalla carica di senatore fini della legge Severino. Il nodo è sempre quello della formula con cui il voto sarà espresso, palese o segreto, e diventano già un caso politico le parole del presidente del Senato Grasso, che a margine del suo viaggio ufficiale a Washington ha detto: se il voto sarà segreto bisognerà vedere se sarà davvero un voto di coscienza o se dipenderà piuttosto da interessi diversi. Immediate le reazioni dei capigruppo del PDL per Brunetta a ritenere che i senatori con il voto segreto possano rispondere a interessi diversi dalla coscienza è un'insinuazione gravissima. Parole gravi gravi anche per Schifani, che invita Grasso a chiarire, ma le tensioni attraversano anche lo stesso PDL. Se il ministro Lupi nega che la vicenda Berlusconi possa portare ad una crisi di governo, i falchi del PDL non la pensano allo stesso modo. La questione è un fatto politico. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il punto di Stefano Folli. Matteo Renzi non ama le larghe intese, cioè il governo con il centrodestra, e non ne fa mistero. In cuor suo avrà gioito per la frattura verticale di ieri fra PD e PDL conseguente all'elezione di Rosi Bindi al vertice della Commissione Antimafia. Ma Renzi sa che le sue fortune sono legate a un sistema elettorale maggioritario che gli permetta, da leader del PD, di vincere con chiarezza le prossime elezioni. Ebbene, nel suo partito, quello di cui fra breve egli sarà il segretario, c'è chi rema contro questa ipotesi maggioritaria. Ma chi lo dice? Lo dice lui stesso, Renzi. Ecco allora la prima battaglia in cui il sindaco leader dovrà impegnarsi, quella contro una parte consistente del suo stesso PD. Se la vince avrà poi la strada spianata, ma è sempre un azzardo porsi alla guida di un partito vedendo in esso soprattutto un ostacolo da superare con un rapporto diretto con l'opinione pubblica. Si capisce da questo quanto sarà in salita la strada del sindaco. Questo è il quadro della politica. Noi ci spostiamo all'estero, ma in qualche modo continueremo anche a parlare d'Italia, perché la Russia ha deciso di non partecipare al processo internazionale sul dissequestro della nave di Greenpeace. Come sapete, in questa vicenda è coinvolto anche un italiano. Ci colleghiamo con Antonella Scott per fare il punto su tutto ciò. Antonella, buongiorno. Buongiorno, sì, la situazione degli attivisti di Greenpeace è sempre più complicata. La Russia ha respinto il procedimento di arbitrato internazionale che era stato avviato dall'Olanda. L'Olanda si era rivolta al Tribunale Internazionale del Diritto Marittimo per chiedere il dissequestro del rompighiaccio che batte bandiera olandese e il rilascio degli ambientalisti che, ricordiamo, a settembre erano entrati in acque russe, tra loro l'italiano Christian D'Alessandro, appunto, e avevano tentato di attaccare una piattaforma petrolifera da cui Gazprom intende esplorare i giacimenti sottomarini dell'Artico. Gli attivisti sono una trentina di vari paesi e ora sono in carcere a Murmansk in attesa di processo con l'accusa di pirateria, una pena per la quale rischiano fino a 15 anni di carcere. Finora sono state respinte le petizioni per un loro rilascio, c'è stata una lettera di 11 premi Nobel per la pace, a Gazprom si è anche rivolto l'amministratore delegato dell'ENI, Paolo Scaroni, ma finora la risposta da Mosca è che sono state violate leggi russe e solo la giustizia russa può decidere in merito. Così, allo stesso modo, ora il Cremlino ricorda di non aver mai voluto accettare la Convenzione sul diritto del mare quando questa contraddice le leggi federali russe sui diritti di sovranità o giurisdizione, e questo è esattamente il caso, fanno sapere oggi da Mosca, dell'Arctic Sunrise di Greenpeace. Grazie Antonella Scott per questo aggiornamento. Parliamo di gioco adesso, gioco che può dare dipendenza, come sapete, è una realtà in preoccupante crescita. In Emilia Romagna i giocatori ad alto rischio di dipendenza sarebbero circa 10.000 e la Popolare Emilia Romagna ha deciso di intervenire, tra le altre cose bloccando le carte di credito a chi si sta rovinando. Sentiamo Luigi Odorici, amministratore delegato della Banca Popolare Emilia Romagna, intervistato da Valeria De Rosa. Non era un fenomeno così che fosse oggetto di rilevazione specifica, quindi qualche messaggio evidentemente era arrivato e quindi sulla base di queste evidenze non strutturate abbiamo ritenuto poi di promuovere questa iniziativa. Come procedete? Beh, diciamo che tecnicamente intanto noi ci riferiamo al mondo delle carte di credito, che sono appunto quelle che utilizzano il sistema del microchip. In questo microchip noi sostanzialmente abbiamo inibito l'accesso ai siti che praticano il gioco d'azzardo online. Poi attraverso il microchip abbiamo anche la possibilità di mappare alcuni comportamenti che sono chiaramente comportamenti tipici di chi pratica il gioco d'azzardo sistematicamente. E ora fateci sorridere, una storia di cronaca che arriva da Milano. A volte succede, ci sono formidabili gang di consumati professionisti che non lasciano tracce e spariscono nel nulla. Ci sono invece i ladri maldestri che più si intestardiscono a delinquere e più assomigliano a parti rovesciate al mitico ispettore Clouseau che, come Cimabue, fa una cosa e ne sbaglia due. Questa volta nella top 10 dei banditi sgangherati c'entrano di diritto due fratelli egiziani e un operaio italiano incensurato che usava la sua casa come base per spaccio. Che cosa è successo? Che i due faraoni, per sfuggire a una perquisizione della polizia, hanno lanciato dalla finestra una valigetta con 60 grammi di marijuana, centrando un agente che stava proprio sotto. L'agente, che non si era fumato il cervello, ha fatto 2 più 2 ed è entrato nella casa, dove poi ha trovato altri 15 grammi di hashish, due piante di marijuana e 550 euro. Poca roba, ma sufficiente ad arrestarli tutti. Come diceva Air Pantera nei soliti ignoti, un lavoro perfetto. Ma hai capito? Un movimento con l'alibi, tutto scientifico. Vabbè, ma tu la devi piantare con questo scientifico. Dario Ceccarelli, Radio 24, Sole 24 Ore. In chiusura di questa prima parte ci colleghiamo con Alessandra Tedesco, che sta seguendo i lavori di SMAU che si è aperto oggi. Alessandra, allora che cosa emerge? Allora, beh, naturalmente SMAU è la vetrina principe per quanto riguarda le nuove tecnologie e l'innovazione. Tra l'altro quest'anno SMAU compie 50 anni, quindi insomma un compleanno di tutto rispetto. Parlavamo di innovazione, infatti sono molte le start-up presenti qui in SMAU. Le start-up sono sostanzialmente dei progetti di nuove imprese che moltissimo sul digitale. Qualche esempio di quelle che ho visto stamattina, cioè per esempio un sistema che, misurando le dimensioni delle mele e delle pere di un albero, riesce a fare una previsione di quello che sarà il raccolto futuro di un terreno. Oppure c'è un pannello che ricarica i cellulari, PC, tablet, insomma di qualsiasi marca, senza aver bisogno del caricabatterie. Adesso proprio ho testato personalmente un apparecchio per fare l'elettrocardiogramma in farmacia senza bisogno, insomma, di un medico. Ma tra l'altro stamattina qui a SMAU sono stati diffusi dall'Osservatorio del Politecnico di Milano i dati sui mercati digitali, che sono cresciuti del 10%. In particolare è cresciuto l'e-commerce, quindi la vendita di beni e servizi attraverso internet, del 14% nel 2013 sul 2012. È un mercato che vale circa 10 miliardi di euro. Che cosa si vende su internet? Beh, soprattutto viaggi, il turismo rappresenta il 50% dell'e-commerce e sta crescendo molto la vendita di abbigliamento. Grazie, grazie Alessandra. Non riusciamo a dare l'ultima nota perché siamo già in ritardo. Io ti ringrazio, ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo e cercheremo di rispondere o di far rispondere alla domanda che vi abbiamo fatto oggi sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, ossia se serva a qualcosa la commissione antimafia. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Letta incontra il segretario di Stato americano Kerry, si verificano eventuali violazioni in merito al Datagate, dice. Ad un anno e mezzo dall'agguato, dopo un anno e mezzo di coma, muore il consigliere comunale di Torino Alberto Musi. Più entrate e più spese nel 2014, questo è il quadro della manovra. I timori per i nuovi tributi, i piccoli comuni dell'Anci dicono non ce la faremo a tenere la Tasi all'aliquota minima. Sempre più forti segnali di una scarsa tenuta della maggioranza, ancora scontro sul voto di ieri che ha eletto Rosy Bindi alla presidenza della Commissione Antimafia. E proprio da qua ripartiamo, dalla Commissione Antimafia. Saluto Giuseppe Lumia, che è membro della Commissione Antimafia ed è stato anche presidente del Partito Democratico. Buongiorno Lumia, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Io però vorrei non soffermarmi in particolare sul punto politico, magari se abbiamo tempo una domandina gliela farò. In realtà quello che mi interessa capire oggi e lo stiamo chiedendo anche ai nostri ascoltatori sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, e devo dire che le risposte sono molto brutali, se oggi serve ancora una commissione antimafia. Capisco anch'io che c'è una critica feroce nei confronti della commissione, ma vi assicuro che nella lotta alla mafia la commissione ha un'importanza straordinaria, ha poteri enormi, ha una funzione delicatissima. Le mafie si stanno riorganizzando nel nostro paese, segnalo un fatto che spesso non viene indicato, molti boss stanno uscendo dal carcere per fine pena e sono di nuovo pronti a riprendere le loro funzioni di guida delle organizzazioni mafiose su tutto il territorio nazionale. Avere una commissione che fa inchieste vere, che sfida le mafie, li colpisce in questo momento che si vogliono riorganizzare, in grado di colpire il rapporto mafia e politica, mafia ed economia, è una commissione importante ed insostituibile. Certo, deve uscire fuori dalle polemiche, deve darsi un programma vero di lavoro, e io che ne sono stato il presidente so bene le potenzialità di questa commissione e mi auguro che queste potenzialità vengano fuori e si mettano da parte tutte le polemiche di queste ore. Però, mi scusi Lumia, io sono molto concreto, se vuole anche un brutale. Lei mi ha parlato in termini generali, no? della funzione che può avere la Commissione Antimafia. Lei, come sa, insomma, la butad che gira sempre, no? Quando si decide di non fare qualcosa si fa una commissione. Ora, la Commissione Antimafia è certamente servita, soprattutto nei primi anni della sua formazione. Non riesco a capire il ruolo della Commissione in questo momento, perché molti ascoltatori ci scrivono, giustamente, anche visto quello che è successo ieri, dicono, beh, alla fine serve a distribuire poltroni. Appunto dicevo, una commissione che mette da parte questo approccio può fare tanto. E la mia esperienza mi dice che conta molto il programma di lavoro, e questo programma di lavoro deve scontare questa critica e deve dimostrare le potenzialità che la Commissione ha. Faccio qualche esempio. Io questo volevo da lei, qualche esempio. Sul riciclaggio internazionale non ci siamo. Siamo diventati bravini sull'antimafia del giorno dopo. Cioè le mafie si organizzano e lo Stato rincorre. Sull'antimafia del giorno prima, sui punti strategici su cui le mafie sono in grado di riorganizzarsi anche quando subiscono dei colpi, non ci siamo. Ecco, il riciclaggio internazionale è un campo scoperto e lì fluiscono denari a non finire. Sul rapporto mafia e politica nei territori non ci siamo ancora e lì la Commissione deve avere quel ruolo di non guardare in faccia nessuno e di non delegare tutto alla magistratura, perché se deleghiamo tutta la magistratura, molte responsabilità del sistema delle collusioni sui territori non verranno fuori. Abbiamo un potenziale nell'antiracket enorme di associazioni, di gruppi, di imprenditori che si sono messi a fare un lavoro eccezionale, mi riferisco alle associazioni antiracket, alla stessa Confindustria che dalla Sicilia ha iniziato un cammino storico senza precedenti, ma se la Commissione non li collega, non mette insieme il sistema, non fa in modo che il prefetto, il questore, la magistratura, la scuola, l'imprenditore che denuncia non fanno sistema, è chiaro che tutto questo lavorio si disperde, le potenzialità vengono abbassate e ognuno va per conto proprio e alla fine non si fa sistema. Ma non ho capito lo mio, ma questo ruolo di raccordo, che pure capisco che è importante, non lo può svolgere per esempio il Ministero dell'Interno? No, con una sezione dedicata? No, perché la Commissione Antimafia va oltre la funzione solo degli apparati repressivi. Perché la Commissione Antimafia ha i poteri della magistratura che il Ministero dell'Interno giustamente non ha, perché la Commissione Parlamentare Antimafia è al di sopra delle parti, perché la Commissione Parlamentare Antimafia è in grado di accertare quella responsabilità politica e non delegare tutta la responsabilità penale. Insomma, la Commissione Antimafia è uno strumento unico nelle democrazie avanzate, sa perché? Perché mette insieme il potere legislativo, può dare atto di indirizzo al Parlamento, il potere esecutivo può dare delle indicazioni ai poteri esecutivi, compreso il Ministero dell'Interno, e anche una funzione d'inchiesta, quindi funzione giudiziaria. È un fatto delicatissimo, perché nelle democrazie questi poteri devono essere tenuti divisi, ma la sfida dell'antimafia richiede un organismo parlamentare di questo, ecco, tipo, in grado di svolgere questa delicatissima funzione. Ecco perché, Lumia, nonostante le polemiche, bisogna mettere in moto la macchina e farla camminare con tutti i poteri che ha. Lumia, molto brevemente, veramente le chiedo in 20 secondi, e anche qua scusi la brutalità, ma ha senso che la Commissione Antimafia abbia come presidente una Rosy Bindi, che ha una storia di oggettivamente di non profondissima conoscenza, a parte le elezioni in Calabria, se ci vogliamo mettere quella della materia? Non sarebbe stato meglio qualcuno di un po' più dentro a queste cose? Penso a lei, per esempio. Guardi, diciamo con molta onestà, adesso Rosy Bindi è la presidente, e quindi spetta a lei e spetta a tutti noi fare in modo che questa discussione sia messa da parte. Andava fatta il giorno prima, adesso che Rosy Bindi è presidente bisogna impegnarsi perché questa commissione funzioni. Guardi, però non è preparata, diciamocelo Lumia, non è preparata Rosy Bindi. L'aiuteremo tutti insieme a recuperare il deficit di conoscenza e sfrutteremo un fatto che lei ha, è onesta e autorevole, e sfruttando questi ingredienti, quelli che abbiamo più esperienza, faremo squadra. Dovremo fare squadra e facendo squadra faremo camminare bene la commissione. Ok, un super istituzionale Giuseppe Lumia, salve, la ringrazio, buona Prego, giornata. Buona giornata e buon lavoro. Saluto adesso Giovanni Faverin, segretario generale della CISL Funzione Pubblica, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, una domanda abbastanza secca quella che le faccio. Allora, oggi è uscita fuori la notizia che all'interno della legge di stabilità è stato previsto che gli aumenti contrattuali dei dipendenti della Banca d'Italia che erano stati fermati da Giulio Tremonti vengono riattivati, vengono scongelati sostanzialmente. Allora io la chiamo esattamente per questo, perché mi incuriosisce sapere che cosa ne pensa un sindacalista della funzione pubblica del fatto che vengano scongelati questi aumenti e vengano invece ricongelati quelli che riguardano tutto il resto del pubblico impiego. Che cosa ci dice? Beh, certamente l'errore è la mancanza di equità che c'è in questo paese, perché basta che l'elenco lo faccia Tremonti o lo faccia un altro ministro e in questo modo si decreta che una persona che magari prende 50.000 euro all'anno di aumento possa avere un rinnovo e chi ne prende 22.000 no. Quindi il punto vero è l'errore che fa un paese che ha 800 miliardi di spesa pubblica, che non sa contenere. Dal 90 ad oggi la spesa pubblica è passata da 373 miliardi a 800, è aumentata di 200 miliardi negli ultimi 11 anni perché non si mettono costi standard e quindi non si vuole perseguire il meccanismo di risparmio. E faccio notare che i dipendenti pubblici in questi ultimi 11 anni sono calati di 370.000, quindi spesa pubblica più 200 miliardi e ci sono tutti gli ultimi 4 governi incapaci di costruire un argine al consumo del bilancio familiare Italia, consumo esagerato per interessi, speculazioni Faverin, e mancanza. Faverin, ma pensa che Saccomanni abbia fatto un favore ai suoi ex colleghi? Ma non arrivo a dire questo, però sicuramente Saccomanni, che è una persona per bene, non ascolta molto e non approfondisce quello che sta succedendo nelle amministrazioni pubbliche, perché lui sa bene. Non arriva a dire questo, però ci ha pensato. Beh, diciamo che quello che mi fa specie è che ci siano troppi dirigenti della Banca d'Italia che prendono 2, 3, 10 volte tanto, qualcuno anche 20 volte tanto un dipendente, che si mettono a fare i professori sull'equità e la moralità. Questo è il punto, manca una livella sulle capacità e le competenze e credo che il ministro farebbe bene andare a vedere come mai aver buttato 17 miliardi di mancati aumenti che i dipendenti pubblici hanno regalato al paese pensando che diminuisse la spesa pubblica, e invece la spesa pubblica ha continuato a aumentare, e siccome quei dipendenti pubblici e privati e pensionati pagano l'84% di quel bilancio con le loro tasse di 800 miliardi, è scandaloso, ecco perché c'è una protesta anche col presidente Letta, che non esista una politica autorevole che metta, come facciamo noi nelle famiglie, dei costi standard, degli indicatori che obblighino 30.000 agenti di spesa a operare col buon senso del buon padre di famiglia. Questo serve a trovare risorse per far abbassare le tasse e per ridare il contratto giusto ai dipendenti pubblici che hanno perso 5.000 euro a persona e quindi in qualche caso a famiglia, e non hanno certo contribuito a dare rilancio alla crescita, al manufatturiero e ai consumi interni. Grazie Faverin, buona grazie giornata. E anche voi, lei non mi si è sbilanciato tanto, oggi siete tutti un po' così, lei, Lumia. Ci fermiamo, una pausa, ci ritroviamo tra un attimo e parliamo dell'inchiesta che riguarda la regione Emilia-Romagna, dove sono indagati per peculato tutti i capigruppo, compreso quello del Movimento 5 Stelle. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Picchiato e ucciso in Inghilterra un ragazzo italiano di 19 anni, ci rubi il lavoro, gli avrebbero detto, arrestate 9 persone. Datagate, Letta, Kerry, vanno verificate le violazioni. Alfano, dobbiamo acquisire tutta la verità e dire tutta la verità senza guardare in faccia a nessuno. Ad un anno e mezzo dall'agguato e dopo un anno e mezzo in coma muore il consigliere comunale di Torino Alberto Musi. Più entrate e più spese nel 2014, questo è il quadro della manovra. I timori per i nuovi tributi, piccoli comuni del Lanci dicono non ce la faremo a tenere la TASI all'aliquota minima. Sempre più forti i segnali di scarsa tenuta della maggioranza, ancora scontro sul voto di ieri che ha eletto Rosy Bindi alla presidenza della Commissione Antimafia. E noi adesso vogliamo invece parlare di una nuova indagine. Ad un anno dal primo arrivo della Guardia di Finanza nella sede della Regione Emilia-Romagna per acquisire materiale e iniziare a controllare i conti del Consiglio regionale, in tutta una serie di ondate di perquisizioni ed indagini che sono seguite alla scoperta del caso di Francone Fiorito, che tutti ricorderete benissimo. Insomma, si è andati a mettere le mani nei conti dei consigli regionali e dei gruppi. Ci sono indagati, 9 a quanto pare, tutti i capigruppo dell'Assemblea legislativa attualmente in carica. E tra questi c'è anche, gliene chiediamo conferma tra l'altro, se ha notizia dell'indagine, Andrea De Franceschi, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione. Buongiorno De Franceschi. Buongiorno. È indagato? Non so, me lo deve dire lei perché ne sapete di più voi di me. No, guardi, io leggo, leggo le agenzie. No, ma abbiamo tutti la stessa fonte di informazioni. Non ho nessuna notizia del genere, mi sembra che sia evidentemente un atto dovuto, per cui ovviamente dovendo indagare e dovendo spulciare, come dicevate, i conti di tutti i gruppi, e sono probabile che siano iscritti tutti e 9, insomma. Ma come mai? Ci spiega le motivazioni, insomma, perché abbiamo voluto chiamare voi, no? Perché voi siete quelli che dicono la politica pulita, i soldi in mezzo non ci devono stare, e qua si parla di un'indagine per peculato, Ma guardi, io non saprei che cosa spiegare, in quanto non so esattamente che cosa possa essere eventualmente contestato. I nostri conti di euro per euro, fattura per fattura, scontrino per scontrino sono online, su internet, sul nostro sito dal 2010 a oggi, per cui chiunque poteva guardarli, li può guardare la procura, li può guardare i giornalisti, e soprattutto io l'ho sempre fatto perché lo guardano i cittadini dell'Emilia Romagna, che sono i primi a mandarmi un avviso di garanzia se ci sono delle cose che non vanno in quei conti, per cui non ho nessun problema, sono certo che tutto quello che abbiamo speso è già stato controllato da chiunque poteva averne interesse. Un vostro... In Marche abbiamo avuto una contestazione, una domanda, un dubbio, di nessun genere. Un vostro ex che in realtà non amate molto, che è Giovanni Favia, dice l'ipotesi che si stia indagando su una falla del sistema che può permettere di pagare con consulenze anche di poche migliaia di euro l'impegno profuso da alcuni nel trovare le preferenze alle elezioni. Ma guardi, quello che fanno gli altri gruppi mi è ignoto ed è ignoto a tutti, perché noi credo che siamo gli unici a pubblicare online sia i nomi dei collaboratori, chi sono le persone che paghiamo con soldi pubblici per svolgere il lavoro nel gruppo consigliare, sia appunto tutte le altre spese. Quello che fanno gli altri gruppi invece è segreto per natura costituzionale della Regione Emilia-Romagna, non si sa chi sia indipendente, non si sa come vengano spesi i soldi. Per cui non sono in grado di sapere se un collaboratore ha svolto poi attività di partito o cose simili. Insomma. Da noi no di sicuro, ma ripeto, i primi a controllarlo sono i cittadini, che possono vedere che Pinco Pallo lavora per me e possono sapere se contemporaneamente lavora per il Movimento 5 Stelle. De Franceschi, ci dà anche il sito qua in diretta, così insomma anche gli ascoltatori possono andare a controllare se vogliono? Emilia-Romagna 5 in numero stelle.it. Perfetto. Siede al sito di Beppe Grillo andando nella cartina geografica. Grazie De Franceschi, buona giornata, e vedremo poi appunto se sarà confermata questa indagine. Lei stesso ci dice in realtà lo ritiene probabile. Noi adesso continuiamo nella nostra lista di persone. Allora, Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, è da un paio di settimane in sciopero della fame, ha perso 6 kg per chiedere la riforma della legge elettorale. Alcune persone si stanno unendo a questa staffetta, ve lo raccontiamo tutti i giorni, si tratta di deputati, parlamentari, consiglieri regionali, ma anche molta gente comune, oltre che anche personaggi dello spettacolo. Una staffetta, un giorno di digiuno a testa per protestare, per chiedere la riforma della legge elettorale. Tutto questo culminerà in questo No Porcellum Day il 31 di ottobre. Chi abbiamo in linea oggi? Buongiorno, sono Simona Malpezzi. Mestiere? Ma sono deputata, ma fino a marzo ero in classe, facevo la prof. E perché ha deciso per questa giornata di sciopero della fame? Ma ho deciso perché è importante che l'attenzione rimanga davvero calda rispetto al tema. Può sembrare sciocco che magari dei parlamentari decidano di fare lo sciopero della fame, loro sono chiamati a legiferare, però noi abbiamo bisogno di sottoporre davvero l'attenzione quello che per noi è un problema. Con questa legge non si può tornare a votare e noi vogliamo trovare al più presto una soluzione, che il Parlamento la trovi, quindi spingerlo in questa direzione. Tra l'altro io ho partecipato anche la scorsa settimana alla staffetta e ho accolto anche un ulteriore invito, che è quello di uno dei candidati alla segreteria provinciale del Partito Democratico milanese, che è Pietro Bussolati, che ha invitato tutti i consiglieri regionali, militanti, chiunque, per il prossimo venerdì 25, quando Giachetti sarà proprio a Milano, a partecipare alla staffetta, oltretutto aggiungendoci un carico in più, nel senso che i soldi che saranno risparmiati, chiamiamoli così, dai pranzi che non faremo, andranno al fondo di emergenza del Comune di Milano, hanno istituito per far fronte alla situazione dei profughi siriani, per cui uniamo due tematiche per noi molto care. Molto care. Grazie Malpezzi, buona giornata, noi ci fermiamo per la viabilità, ci ritroviamo subito dopo e come sempre c'è Mario Platero. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Picchiato e ucciso in Inghilterra un ragazzo italiano di 19 anni, ci rubi il lavoro, gli avrebbero detto arrestate 9 persone. Datagate e Letta Kerry, vanno verificate le violazioni. È morto dopo un anno e mezzo in coma il consigliere comunale di Torino Alberto Musi. Più entrate e più spese nel 2014, questo il quadro della manovra. Ancora scontro sul voto di ieri che ha eletto Rosy Bindi alla presidenza della commissione antimafia. È il momento di America 24 e di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero, New York, con una presenza culturale italiana importante. Umberto Eco ha presentato un suo progetto di cultura e civiltà europea alle Nazioni Unite. Lo ha fatto con Corrado Passera, che è l'editore di questo progetto, e ho scoperto che ci hanno lavorato insieme per 20 anni. La questione culturale è ovviamente importante e dunque a me interessa capire i diversi punti di vista, e ho fatto una domanda a Umberto Eco, sentiamola. Qualcuno dice che la cultura americana rispetto a quella europea, molti lo dicono, beh, insomma, non è allo stesso livello, anche quella contemporanea. Cosa pensa di coloro che dicono questo? Ma no, intanto bisogna dire se stiamo parlando della cultura generale o della cultura scientifico-accademica. Se parliamo della cultura accademica, in tutte le discipline gli Stati Uniti stanno producendo cose di altissimo livello. Quando parlo di perdita della memoria, non parlo della memoria del professore di Harvard, casomai parlo piuttosto della memoria del ragazzo che sta passando lì sotto. Ecco, avete sentito, Umberto Eco, diciamo, mette i puntini sugli i. Però io di questa cosa vorrei continuare a parlare e ho con me ai microfoni di America 24 proprio Corrado Passera. Buongiorno Passera. Buongiorno, buongiorno. Beh, intanto condivide il pensiero di Eco. Nella società americana, ma secondo me in tutte le società, comprese la nostra, c'è una larghissima fascia di popolazione senza gli strumenti fondamentali per comprendere ciò che succede e per avere spirito critico. Questa è una realtà ed è la ragione per cui bisogna investire molto di più su formazione a tutti i livelli. Quello che però l'Eco ha voluto proprio tirar fuori come necessità impellente in tutte le nostre società è l'importanza della storia, l'importanza di capire come si è arrivati all'oggi con quel livello di memoria sufficiente per capire le ragioni, le lezioni della storia, per non rifare gli errori e per non reinventare l'acqua calda, diceva anche all'ONU, come troppo spesso si fa. Questa è la ragione anche del lavoro ventennale che abbiamo fatto insieme. Ecco, imparare la storia. In questi giorni abbiamo visto che gli americani sembra che la storia non l'abbiano imparata, soprattutto i repubblicani hanno fatto un muro contro muro sull'Obamacare e poi hanno perso. Ecco, il muro contro muro lo vediamo anche da noi. Letta ha detto, purtroppo capisco la situazione politica americana. Insomma, riusciamo a uscirne? Soprattutto da noi c'è una possibilità di uscirne. In Italia, rispetto alla situazione americana, abbiamo una grande opportunità che è quella delle larghe intese. Oggi teoricamente abbiamo un enorme appoggio parlamentare a un Parlamento che potrebbe finalmente affrontare riforme e decisioni coraggiose che probabilmente nessuna delle due parti politiche potrebbe prendere. È un'opportunità da cogliere ed è anche una grande responsabilità. E secondo lei si stanno facendo queste riforme, si stanno cogliendo queste opportunità o non fino in fondo? No, per ora non si sta cogliendo assolutamente e siccome è chiaro che l'Italia non ha bisogno di cambiare mai, è importante ed è un auspicio che l'attuale governo con l'attuale appoggio parlamentare affronti in maniera più coraggiosa i problemi economici, istituzionali, ma di funzionamento del paese che oggi a mio parere non vengono affrontati abbastanza. La legge di stabilità è una piccola cosa rispetto a quello che sarebbe necessario fare. Passer, abbiamo visto che con JP Morgan Chase e l'accordo col Dipartimento per la Giustizia c'è un sistema di giustizia molto trasparente, efficace, insomma un po' l'opposto da quello che c'è da noi. Ecco, è vero che gli investitori stranieri resistono a venire in Italia anche per i problemi della giustizia? Molti investitori che potrebbero essere interessati al nostro paese sono impauriti, ma non tanto dai temi che accennava lei, ma dalla complicatezza delle norme, dalla non stabilità delle norme, dalla non chiarezza di chi sono gli interlocutori nell'amministrazione o eventualmente nella giustizia quando si hanno dei problemi. Quindi sicuramente è un tema forte. In Italia tendiamo a perderci certe volte su temi ideologici relativi alla giustizia, quando con una serie di interventi ben mirati e pragmatici si potrebbero svuotare i tribunali da tante cause assolutamente irrilevanti per poterci concentrare su quelle serie. Ecco, io parlando qui a Wall Street ho recepito, lei ha visto probabilmente anche lei delle persone in questo suo viaggio, che per poter investire in Italia ci vogliono certi risultati dal punto di vista delle riforme. Oggi abbiamo un governo che in teoria ha una maggioranza, ha passato un voto della fiducia, dovrebbe essere il momento migliore per prendere delle iniziative. Perché non si fa quello che si deve fare? Perché? Non è a me che dovrebbe chiederlo, come cittadino certamente mi faccio la stessa domanda e siccome so che si potrebbero fare delle cose anche molto importanti in tempi relativamente brevi, questa mancanza di coraggio, di determinazione, di mettere l'interesse pubblico, comune, davanti agli interessi adesso di singoli partiti o di singole persone, effettivamente indigna anche me. Ecco, lei però su questo sta lavorando, è venuto anche in America per così farsi delle idee, ha intenzione di tornare un po' all'attacco in prima linea dal punto di vista politico in Italia? Beh, c'è un gran lavoro da fare e questo sabbatico forzato, nel senso che come sa dopo ministro bisogna avere un periodo di inattività, ecco, ho deciso di dedicarlo a mettere insieme a delle persone in gamba nei vari campi una serie di proposte per il nostro paese. Il declino non è da accettare, non è inevitabile, dobbiamo convincerci che con delle proposte, con delle iniziative molto forti, il nostro paese si può rimettere in binario. E quindi un nuovo partito, una idea, una colazione? Lavoro per un progetto per il paese, dopodiché questo è meno importante come, dove, chi. Cominciamo a convincerci che il nostro paese ce la può fare a rimettersi in binario, a ricominciare a crescere. Senza crescita, ai 10 milioni di italiani che hanno problemi, veramente non avremmo risposte. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Chromeo hanno diffuso su SoundCloud un nuovo single del loro prossimo disco White Women. Dei Chromeo, Sexy Socialite. You're a sexy socialite, all you do is socialize and you're always so polite. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Chiudiamo qua Effetto Giorno per critiche, commenti, insulti e se volete anche complimenti mi trovate su Twitter, Simone Spezia, un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggin in redazione e come sempre a tutta la redazione di Radio 24. Ci ritroviamo tra un attimo con il GR e poi vi tocca anche oggi, ci ritroviamo alle 17 con Focus Economia. Intanto una pausa.